notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La realizzazione di un sogno. La realizzazione di un sogno. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo è il presidente di Confindustria Squinzi, che ha parlato di un sogno a proposito della legge di stabilità, dei tagli alle tasse di cui ha parlato ieri Renzi. È una cosa particolare che il presidente del consiglio di un partito di centrosinistra faccia sognare il presidente di Confindustria. Comunque, insomma, sapete che no, c'è flessibilità in questo, è a seconda dei momenti, delle cose decise, eccetera. Parleremo anche di questo argomento, parleremo di molti altri temi. Fra l'altro, fra i temi politici, io ve l'avevo già accennato giorni fa, forse una settimana fa, anche 10 giorni fa, questa polemica tra Forza Italia e il nuovo centrodestra sull'unione gay, diciamo così, scaturita dalla circolare del ministro dell'Interno Alfano, che aveva intimato ai prefetti di non trascrivere le nozze gay avvenute all'estero, trascrivere nei comuni italiani. Sapete che c'è proprio una guerra in atto tra il nuovo centrodestra e Forza Italia, e adesso addirittura è intervenuto Fitto, quello che doveva essere il delfino di Berlusconi, per attaccare Francesca Pascale, la compagna di Berlusconi, che sembra abbia un po' la colpa per loro, il merito per altri, di continuare a far avanzare Berlusconi su posizioni più liberali, più aperte sull'unione gay. Addirittura oggi una parlamentare di Forza Italia ha detto che è favorevole anche alle elezioni dei gay. Qualcosa si sta muovendo di grosso in Forza Italia. Parleremo anche di questo tema, e vorrei, anche se volete che esprimeste le vostre opinioni, sempre attraverso le due possibilità: o sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì in qualsiasi momento, oppure attraverso gli SMS al 349-238-6666. Di questi temi parleremo man mano. Adesso facciamo un riassunto delle notizie del giorno. Documento di economia e finanza, la Camera approva la risoluzione di maggioranza, legge di stabilità verso il varo, per Confindustria la manovra, come avete sentito, è un sogno, contrario alla CGIL. Intanto Moody's dice che il bilancio d'Italia è solido, a tempo per le riforme. Grillo Genova, il leader del Movimento 5 Stelle, contestato nella sua città, e napolitano sull'alluvione, dice ci sono state inerzie locali e incuria. Ebola, morto a Lipsia un funzionario dell'ONU. Fecondazione eterologa all'ospedale Careggi di Firenze, il primo intervento. Calcio, il presidente della UEFA Platini interviene sulle polemiche relative a Juve-Roma. Le solite reazioni contro chi vince, dice. Per il gossip, Balotelli verserà 1.000 sterline a settimana per la figlia Pia. Partiamo quindi dalle notizie economico-finanziarie. Oggi la Camera ha votato a favore della risoluzione della maggioranza sul DEF, sul documento di economia e finanza. I voti favorevoli sono stati 355, 166 quelli contrari, ma poi, per capire cos'è questo benedetto documento di economia e finanza, avremo tra poco un ospite. E intanto il ministro dell'economia Padoan, al termine dell'Ecofin, cioè del vertice dei ministri dell'economia europei, assicura l'Italia manterrà il rapporto deficit-PIL al di sotto del 3% rispettando le regole europee. Il governo italiano per ora non cede quindi alle pressioni della Commissione europea e conferma che domani, al momento di varare la legge di stabilità, la correzione del deficit strutturale sarà limitata a 0,1 punti percentuali di PIL nel 2015. Tutti argomenti che cercheremo poi di chiarire stasera nel corso di Effetto Notte. Alle 15 domani CDM per il varo dell'ex finanziaria. Dicevamo, positiva la reazione di Confindustria, contraria alla CGIL. Secondo fonti Reuters, l'Europa sarebbe pronta ad apportare correttivi. Avete sentito prima però l'agenzia Moody's che dice l'Italia ha un bilancio solido. Oggi Renzi ha sentito telefonicamente Juncker. Una manovra che si conferma da grandi numeri, quella che arriverà domani sul tavolo del Consiglio dei Ministri, una legge di stabilità da 30 miliardi con 16 di tagli e 18 di tasse in meno, con un obiettivo tra tutti: rilanciare occupazione e consumi e riportare così il prodotto interno lordo in terreno positivo. Da qui la riduzione dei contributi previdenziali per 3 anni per i nuovi assunti a tempo indeterminato, ed ancora 6,5 miliardi per abolire la componente lavoro dell'IRAP, oltre a 0,5 miliardo di detrazioni per le famiglie. Altro capitolo, quello del TFR in busta paga. L'ipotesi sta prendendo corpo nelle ultime ore. Ci stiamo lavorando concretamente, conferma il sottosegretario Delrio. È prevedibile che la misura ci sia, aggiunge il ministro del lavoro Poletti. Palazzo Chigi, secondo indiscrezioni, punterebbe ad un accordo con le banche che consenta l'anticipo facoltativo. Nella legge di stabilità non ci sarebbe poi alcun intervento sulle pensioni né taglia alla sanità. Sì invece alla proroga dell'eco bonus al 65% di quella al 50% per le ristrutturazioni. Rispetteremo il limite del 3% del rapporto deficit-PIL, annuncia intanto il ministro dell'economia Padoan, che poi conferma l'aggiustamento strutturale del deficit resta dello 0,1%. Infine l'Istat, deflazione in aumento a settembre, prezzi giù dello 0,2% rispetto ad un anno fa. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Le anticipazioni sui contenuti della legge di stabilità non convincono la CGIL, che conferma la manifestazione del 25 ottobre. Secondo Susanna Camusso, la necessità principale per l'Italia è quella di creare nuovi posti di lavoro, ma la manovra annunciata da Renzi ripropone uno schema già visto che, secondo la numero uno del sindacato di Corso Italia, non mette in moto né investimenti né occupazione. Un mix di riduzione fiscale per alcuni e taglio della spesa ci pare che ci manterrà nello stato recessivo di cui vive oggi il paese. Sempre dal fronte sindacale, la leader della CISL, Furlan, chiede che la legge di stabilità segni una svolta vera sul piano delle tasse e degli investimenti. Il presidente di Confindustria, Squinzi, esprime invece piena soddisfazione per le misure annunciate dal governo, in particolare per quelle sull'IRAP. Ieri, quando l'ha annunciato il presidente del Consiglio, onestamente io ho sentito un po' che si realizzava quasi un nostro sogno, perché noi sono anni che chiediamo l'eliminazione della componente lavoro dal calcolo dell'IRAP. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questo mentre si conferma il difficile momento per l'economia tedesca. Tutti i paesi devono fare i loro compiti, tuonava qualche giorno fa la cancelliera tedesca Angela Merkel, in primis gli studenti francesi e poi quelli italiani. Sorger Kinder, bambini problematici, ci ha chiamato Weidmann, presidente della Banca di Germania, spiegando che Italia e Francia sono in ritardo con le riforme. Oggi però la bacchettata arriva ai tedeschi, anche se il ministro dell'economia Gabriel rassicura. Il paese non è in recessione, non c'è nessuna ragione per allarmarsi, l'economia resta solida. Di cosa dovrebbe dunque allarmarsi la Germania? Di una serie di dati economici che non sembrano più essere dalla sua parte. Prima il crollo dell'export, poi la produzione industriale, ora la fiducia degli investitori, scesa a ottobre per il decimo mese consecutivo, e infine il più temuto, il PIL. Il governo ha tagliato da più 1,8% a più 1,2% le stime di crescita per il 2014, facendo temere per un calo anche nel terzo trimestre dopo il secondo. Bisogna investire di più, dicono tutti da giorni, e lo ripete Gabriel, senza sforare però il pareggio di bilancio. Forse toccherà anche alla Germania fare le riforme. Livia Zancaner, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Proprio in Germania oggi c'è stata una vittima dell'Ebola e sale pericolosamente il bilancio complessivo. È deceduto nell'ospedale tedesco di Lipsia il dipendente ONU proveniente dalla Liberia, che era stato ricoverato giovedì dopo aver contratto il virus di Ebola. E il primo decesso per Ebola in Germania arriva nel giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità diffonde il nuovo terribile bollettino. Si aggrava infatti il bilancio dell'epidemia. Il totale dei casi, secondo l'OMS, raggiungerà i 9.000 entro la settimana. I decessi sono saliti a quasi 4.500. Non solo, l'OMS lancia un nuovo allarme. Stima che in dicembre il numero di nuovi contagi da virus Ebola potrebbero salire fino a 10.000 a settimana in Guinea, Sierra Leone e Liberia, se non verrà intensificata la risposta all'epidemia. Intanto, per discutere dell'emergenza, il Consiglio di sicurezza dell'ONU si riunirà alle 15 ora di New York e alle 21 in Italia, e aumentano gli allarmi, anche falsi. Un aereo della Turkish Airlines decollato da Istanbul e diretto a Pisa è atterrato a Fiumicino con la procedura di emergenza dopo un malore di due passeggeri, ma si esclude sia Ebola da un primo esame. E a Fetto Giorno su Radio 24 Gianni Rezza, capo dipartimento malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, dice: la diffusione in Europa è improbabile. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Siamo all'alluvione di Genova con la tregua del maltempo al nord. Il maltempo dà finalmente una tregua al nord Italia, ma la situazione rimane sempre molto critica. Torrenti straripati, frane, allagamenti e trombe d'aria hanno lasciato un segno, soprattutto in Piemonte e in Emilia-Romagna. Solo nella provincia di Alessandria, di circa 50 milioni di euro, la prima stima dei danni, metà dei quali per le strade provinciali. Le zone più colpite, Gavia e Novi, dove in 6 ore sono caduti 380 mm di pioggia, quasi la metà delle precipitazioni medie annue. La situazione è comunque in miglioramento, il livello di fiumi in netto calo, domani le scuole riaprono, ad Alessandria ancora chiuse invece a Novi. Il presidente del Piemonte Chiamparino annuncia comunque la richiesta dello stato di emergenza. Situazione particolarmente complicata a Parma, dove la zona sud-est è ancora sommersa dal fango a causa dell'esondazione del torrente Baganza. L'ospedale Piccole Figlie e il centro anziani, le strutture più colpite, centinaia, i primi piani e le cantine allagate. A Corniglio è finito sott'acqua un prosciuttificio con 30.000 prosciutti. A Bologna una parte del tetto del portico monumentale che conduce alla Basilica di San Luca è crollato. In tutta l'Emilia è ancora in corso un blackout telefonico. Alessandra Schepisi, Radio 24, e Sole 24 Ore. Quindi si contano i danni, resta la rabbia, rabbia che a Genova oggi ha colpito anche Beppe Grillo, e dopo capiremo in che modo. Anche Napolitano è intervenuto sul disastro parlando di fatti sconcertanti a Genova. Non bastano motivazioni vaghe delle responsabilità o delle cause, io ho sentito un rischio anche di generici, troppo generici riferimenti a proposito di quello che è accaduto di recente a Genova, da ultimo a burocrazie lente o a interventi giudiziari impropri. Bisogna essere molto circostanziati nel vedere dove ci sono stati dei comportamenti che hanno provocato danni. Spostiamoci di nuovo sulle notizie dall'estero. Con la guerra all'ISIS è stata rimossa oggi la bandiera nera che sventolava a Kobane. Nella città siriana di Kobane, al confine con la Turchia, gli scontri non accennano a placarsi, ma la controffensiva degli abitanti curdi sotto assedio dei miliziani dell'ISIS da più di 3 settimane sembra aver portato qualche risultato. Con l'appoggio aereo della coalizione internazionale, che da giorni bombarda le postazioni jihadiste, i curdi sono riusciti a riconquistare alcuni quartieri, arrivando ad ammainare la bandiera nera dell'ISIS che sventolava su una collina alle porte di Kobane. Intanto, mentre i capi di Stato Maggiore della coalizione si riuniscono a Washington per discutere l'avanzata dell'ISIS in Siria e Iraq, la Turchia dichiara di aver bombardato ribelli curdi nel sud-est del paese, gettando ulteriori dubbi sulla volontà di Ankara di intervenire contro i nemici comuni dell'ISIS. Nonostante abbia già accolto circa 200.000 profughi curdi da Kobane, Ankara non vede infatti di buon occhio i combattenti rimasti a difendere la città contro gli islamisti, perché li crede affiliati del Partito dei Lavoratori Curdi, un movimento messo fuori legge dalla Turchia. Nicola Scevola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia, con le vicende scandalose che riguardano Expo di Milano, agli arresti domiciliari il subcommissario Expo Antonio Cerbo, il presidente anticorruzione Cantone ha acquisito l'ordinanza e ora un commissariamento dell'appalto Vie d'Acqua pare inevitabile. Per quanto riguarda l'eterologa, è stata la Toscana la prima regione a muoversi dopo la sentenza della Consulta che, vi ricordate, ha annullato il divieto della fecondazione eterologa, e oggi all'ospedale di Firenze, l'ospedale Careggi, è stato effettuato il primo trattamento con l'utilizzo di gameti maschili venuti da una dall'estero, insomma dall'Europa. Quindi dopo ne parleremo di questa vicenda. Oggi c'è stata la prima coppia, il primo intervento in una struttura pubblica in Italia, e vedremo poi come seguirà. Questa è stata sicuramente una svolta. In chiusura c'è l'annuncio del ritiro del grande campione di slittino Armin Zögler, plurimedagliato olimpico, e lo sentiamo adesso intervistato da Dario Ricci. I successi sono tutti belli, anche tutte le medaglie, tutti i piazzamenti sul podio sono bellissimi, ma mi è rimasto una medaglia molto importante, che è la mia medaglia preferita, e quello è la medaglia di 2006 a Torino, quello che ha raggiunto le Olimpiadi 2006 a Torino. C'è una dedica particolare in questo giorno così speciale, a chi va il tuo pensiero? Sì, sicuramente tutti i tifosi che mi hanno seguito in mia carriera e che mi hanno fatto il tifo in tutta la mia carriera. Vedo anche di martedì sulla 7 un Crozza sempre pare brillante, almeno dagli occhi vediamo la voce. Ecco, è bellissimo, perché ora hai spalato, sei grande anche tu, vai. E insegno ai tuoi figli come impugnare la vanga. E ricordati, vanga rei, tutto scorre, soprattutto il bisagno, che sarebbe poi il torrente che esonda sempre. È genovese, evidentemente si sta occupando di Genova e di quello che è successo oggi. Cosa di cui parleremo con Maria Teresa Meli, buonasera. Buonasera. Maria Teresa, ciao, giornalista del Corriere della Sera, tra le maggiori esperte di politica in Italia. E a questo proposito, appunto, il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, oggi ha fatto visita a Genova, nella sua città, dopo l'alluvione. Un gruppo di angeli del fango, così chiamati dai famosi angeli del fango dell'alluvione di Firenze del 66, lo hanno contestato. Sentiamo un po' queste voci che si sovrappongono, un po' qual era l'atmosfera. Un incontro un po' movimentato tra Grillo e alcuni angeli del fango. Vieni dopo 5 giorni per fare la passerella, gli hanno detto, vieni qui a spalare anche tu, devi, per avere una foto vieni qui che devi starnazzare. Grillo ha risposto, vuoi che mi faccia paura a spalare, i parlamentari 5 Stelle sono nelle strade a spalare come voi, tutti dobbiamo spalare, fate spalare Renzi. Poi c'è stato anche uno scambio di epiteti via Twitter, via blog, tra Grillo e Vendola. Vendola che ha detto non è un grillo, è solo uno sciacallo, e ha commentato su Twitter. E poi Grillo ha risposto, lo nomina lo sciacallo del giorno, Vendola, sul suo blog. Vendola sciacallo del giorno, addirittura più di Zucconi, almeno lui con l'Ilva non c'entra nulla. Insomma, Maria Teresa Meli, questo disastro, invece che pensare a come arginarlo, come prevenire, come mettere in sicurezza, come risarcire anche le vittime, diventa l'ennesimo pretesto di scontro politico? Beh, sì, quello è chiaro. Allora, diciamo che nell'ultima finanziaria sono stati dati 30 milioni di euro per mantenere in sicurezza il territorio italiano, cioè come dare zero, cioè come se io dessi 50 centesimi a tutta Roma, è uguale, è la stessa cosa. La finanziaria è stata la finanziaria di Letta, quello è stato dato, per cui è come dare zero. Dopodiché nei paesi civili, che non, cioè diciamo quindi non l'Italia, un signore che guadagna come Beppe Grillo, che io non so quanto guadagni perché sono molto invidiosa per quello che guadagna, però diciamo in un paese civile Beppe Grillo prende, stacca un bel assegno, non chiede 2000 euro a intervista ai giornalisti che chi se ne frega di quello che dice Beppe Grillo, stacca un simpatico assegno e dà dei soldi per la sua città. Non si presenta dopo 5 giorni tutto lindo, pulito, col motorino, col casco, col capello fonato e anche con un po' di tinta, perché dà sull'azzurrino, non si sa mai il bianco, dietro un po' sul giallo, e si presenta a dire stupidaggini. Così non si fa. Senti, ma... Dopodiché hanno combinato disastri tutti, però che lui venga a fare la morale, no, per favore no. Ha detto anche Grillo sul suo blog, Renzi sapeva di Genova, vogliamo le dimissioni subito. Sapevano di Genova, nessuno sapeva di Genova, cioè nel senso che Genova ha una situazione di problemi, che ci sia il bisogno che ha che può esondare, che può succedere quello, cioè, sì, certo, è vero, lo sapevano tutti, che c'erano dei fondi che erano già stati stanziati, che una parte di quei fondi non è stata usata per pavidità, per paura di ricorsi, anche se il TAR non aveva dato la sospensiva, tutto vero. Che poi l'Italia abbia una burocrazia e una enormità di leggi che fa sì che qualsiasi sindaco, qualsiasi presidente di regione abbia paura di finire poi indagato per un abuso di ufficio perché fa una cosa e poi dopo ci sta un ricorso, ce ne sta un altro, questo anche è vero. Allora, diciamoci la verità, semplifichiamo un po' le norme. Facciamo come nei paesi civili, che se c'è un'emergenza, c'è un'emergenza e chi è responsabile fa le cose e non si sta a dire no, però il TAR, però la sovrintendenza, però ci sta il comune di sotto, il comune di sopra, chi se ne frega, si fanno le cose. Però questo è un problema che diciamo, l'Italia ha da sempre, cioè non è che ce l'ha adesso col governo Renzi o l'altro anno col governo Letta o due anni fa col governo Monti, sono 10 anni, cioè in Germania, che è un paese civile, sono 10 anni che c'è un monitoraggio del territorio, c'è una messa in sicurezza del territorio, in Italia non c'è mai stata. Perché ora è Genova, l'altra volta è il Sarno, l'altra volta ancora è successo in Sicilia, cioè dovunque c'è questo problema e allora forse è il caso di chiedersi se i soldi vanno spesi bene e non in emergenza, perché poi tanto alla fine dovremo spendere un sacco di soldi, cioè, che andranno a finire in tasse di noi italiani, è chiaro. Maria Teresa Meli, però ti voglio anche sottoporre un'altra questione politica che annunciavo già agli ascoltatori, vedo vari messaggi. Vito che scrive: grazie Francesca. Francesca si riferisce a Francesca Pascale, la compagna di Berlusconi, perché tu sai di questo scontro che è partito da giorni tra il nuovo centrodestra e Forza Italia, un continuo scambio di battute, di frecciate, di attacchi, da quando Alfano ha mandato quella circolare ai prefetti intimando loro di non far trascrivere ai sindaci le unioni gay avvenute all'estero. Le ultime battute sono quella di Sacconi, capogruppo del nuovo centrodestra, che dice: è evidente in Forza Italia una deriva nichilista e segna un solco con chi crede nell'antropologia naturale. Risponde Mara Carfagna, che come sai è stata messa di recente a capo di questo Dipartimento dei diritti civili di Forza Italia, che dice: le unioni civili non attentano al ruolo della famiglia tradizionale. Poi c'è uno scontro anche addirittura all'interno di Forza Italia, confitto, quello deve essere il delfino di Berlusconi, che ha detto: ma che cosa, da cosa deriva questa? È una linea derivante da una conoscente di Berlusconi, senza nominarla. Che cosa sta succedendo? Quindi vuoi vedere, dicevo che Berlusconi supera sulla sinistra Renzi in fatto di unioni civili? No, allora diciamo una cosa, Alfano ha fatto una delle stupide, cioè Alfano ha un partito che non arriva al 3% e quindi spera di beccare qualche bigotto che ancora crede al fatto che i gay non possano avere una vita normale, non possano avere anche dei figli, eccetera, eccetera, e quindi Alfano ha fatto questa simpatica circolare che ha fatto ridere mezzo mondo, a cui i sindaci tutti si sono ribellati, tranne forse quelli di NCD, che non so quanti sono, pochi. Dopodiché l'uso strumentale che sta facendo la Pascale, perché la Pascale sta facendo un uso strumentale di questo, a me dispiace il fatto che ci siano dei gay che accettino questo uso strumentale che sta facendo Francesca Pascale di questo problema, perché io capisco che giustamente i gay che non vengono trattati, non vengono fiati di pezza, che ogni anno c'è un governo che dice facciamo i dico, facciamo questo, facciamo quello e poi ogni anno non si fa un cavolo, io capisco che loro si attacchi a qualsiasi cosa e che giustamente se c'è la compagna di Berlusconi che dice Vladimir vieni e ti faccio, ti presento Berlusconi, facciamo questo selfie ridicolo eccetera eccetera, che Vladimir lo faccia va benissimo, che poi però i gay credano a questa cosa non mi va bene, ma non perché non mi va bene che questo non succeda, ma perché è chiaramente un'altra buffonata, è una cosa che non succederà mai, cioè sulla pelle dei gay si sta facendo una battaglia elettorale nel caso dell'NCD, nel caso di Francesca Pascale non so quello che si sta facendo. Non lo so, preferisco anche forse non saperlo quello che si sta facendo, ma non si sta facendo un'operazione, non si sta facendo un'operazione di libertà nei confronti dei gay, non si sta facendo quello, non voglio sapere, preferisco non sapere quello che si sta facendo. Quindi rimaniamo non sapendolo e soltanto aspettando di vedere cosa succede. Leggo Cristiano da Lecce che dice: Silvio favorevole a legittimare i gay, l'ennesima miseria deliberata ad aprire su temi nuovi in cerca di un patetico rilancio, un amalgama squalido fra vedute eticamente ampie ma false e fedeli verità alla virilità, al passato nichilista macista, scusa, solo per mendicare numeri che non verranno più, nel senso anche qui dice insomma un'operazione elettorale. Poi invece Paolo da Rovigo dice: sono contrario al matrimonio tra due omosessuali, contrario al progetto stesso di Dio, della creazione. Il matrimonio tra due persone può essere solo tra un uomo e una donna. L'approvazione, l'approvare il matrimonio tra due persone dello stesso sesso fa il gioco di Satana. E su Satana, Maria Teresa Meli, ci possiamo allora salutare. Benissimo, arrivederci. Ciao, buona serata, ciao. E adesso ci aggiorna invece Andrea Ferro da Genova, ne abbiamo un po' parlato da un punto di vista politico di quello che è successo, dalle polemiche. Andrea, invece dici come stanno a Genova in questo momento? Ciao Andrea. Ciao, buonasera Roberta. Beh, la città oggi ha fatto le prove del ritorno alla normalità, potremmo dire, nel senso che abbiamo visto le prime code e ci prepariamo domani alla riapertura delle scuole, che chiaramente è estremamente significativo nella vita urbana. Una curiosità, hanno fatto anche una rapina in centro. Qualche sciacallo, come si dice. No, oltretutto forse c'era anche perché c'era molta polizia, molti carabinieri impegnati e li hanno presi subito. Questa è anche una buona notizia. Almeno questa è una buona notizia. Chi ne approfitta anche della debolezza dei disastri, insomma. E poi per il resto, Andrea, quindi il maltempo mi pare che sia abbastanza in remissione, no? Sì, i bollettini meteo, va detto che non ci crediamo tantissimo, abbiamo visto e vissuto in questi giorni, indicano ancora una certa instabilità, però sostanzialmente senza situazioni di pericolo sotto profilo idrogeologico, anche se chiaramente ci sono sempre molte preoccupazioni per le frane che da un momento all'altro si possono muovere in un territorio flagellato, saturo, che evidentemente è in bilico anche strutturalmente, la conformazione orografica della Liguria è estremamente particolare. Ci sono notizie preoccupanti ancora dall'entroterra, pensate, alcuni paesi, frazioni, parliamo di pugni di case, sono stati raggiunti solo ora dopo 3 giorni, in particolare in Val Fontanabuona, ma poi anche in Valle Scrivia, Valle Stura, Val Trebbia, insomma tutte le vallate alle spalle di Genova dove si lavora ancora per ripristinare i collegamenti, c'è un sistema di strade minori praticamente cancellato, quindi la strada verso la normalità, Roberta, è ancora piuttosto lunga, soprattutto direi in questo ambito tra virgolette minore, magari con meno riflettori delle televisioni, dei giornali, ma però con problemi altrettanto consistenti. Certo. Adesso ci auguriamo che con tutte le voci che abbiamo sentito di delle istituzioni, di autorità, eccetera, davvero, come dici, vergogna a dirlo, sia la volta buona, no? Ma sembra, insomma, abbastanza illusorio. Maltempo, maremma, torrente, Elsa travolge auto, 2 morti. Anche lì, anche in Toscana adesso arrivano cattive notizie. 2 anziani sono morti nella loro auto travolta dalle acque del torrente Elsa, esondato a causa del maltempo nella zona fra Albinia e Manciano in Toscana. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Ecco. Mentre davamo notizie abbastanza buone sul maltempo, sulla Liguria, che appunto però guardiamo sempre con una certa prudenza, questo è successo, è proprio un'agenzia di adesso per la maremma. Andrea Ferro, intanto grazie da Genova. Ok, ciao, buona Andrea. Serata, buon lavoro Roberto. Buona continuazione, ciao. Dunque, vi ricordate che lo scorso 9 aprile, ricordate comunque è successo quest'anno, è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale rispetto alla fecondazione eterologa e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il divieto di fecondazione eterologa imposto dalla legge 40. E la Toscana è stata la prima regione a muoversi, ad annunciare che avrebbe agito in questo senso, appunto aprendo l'eterologa, e dopo la sentenza che c'era stata in aprile. Poi c'è stato, vi ricordate, abbiamo parlato qui con qui effetto note col presidente della conferenza delle regioni Chiamparino, dell'accordo che era stato trovato tra le regioni per somministrare, insomma, la fecondazione eterologa a prezzi uguali per tutte le regioni, tra i 400 e i 600, mentre l'unica che si era tirata fuori è la Lombardia. Bene, oggi c'è stato il primo intervento a Firenze di fecondazione eterologa all'ospedale Careggi di Firenze. Allora saluto la professoressa Maria Elisabetta Coccia, buonasera professoressa. Buonasera. Responsabile dell'unità operativa di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale Careggi di Firenze, che ha seguito la coppia che oggi ha avuto questo intervento. Come è andato l'intervento intanto, professoressa Coccia? Ma in maniera molto serena, la coppia sapeva già a che cosa sarebbe stata sottoposta e devo dire abbiamo riletto anche insieme il consenso, quelli che sono gli aspetti che possono lasciare dei punti interrogativi sulla questione del donatore, sul fatto che come per la normativa che abbiamo in Italia il bambino nato anche da queste procedure non può essere non riconosciuto come figlio legittimo, di conseguenza erano sereni, veramente convinti, desiderosi di sostenere questa tecnica di inseminazione intrauterina con seme di donatore. Perché da un punto di vista psicologico la remora, dice, potrebbe essere quella di non essere fino in fondo consapevoli che o gli ovuli o gli spermatozoi, in certi casi tutti e due vengono da un donatore esterno che la coppia non conosce, no? Questo poteva essere... Certo, in parte questo. Senta, per quanto riguarda, intanto quante richieste vi stanno arrivando? Voi siete stati i primi, c'è un qualche motivo per cui siete stati i primi, nel senso che già la Toscana, appunto, dicevamo, col presidente Rossi si era subito mostrato aperto, no? È pronto... Sì, siamo stati i primi, nel senso che la Regione Toscana a fine luglio aveva deliberato, aprendo quindi le porte alla possibilità che in una regione come la nostra, in centri pubblici e anche magari privati o convenzionati, si poteva effettuare l'eterologa. Da lì è stato un volano, come sa, poi anche c'è stata la conferenza delle regioni che il 4 di settembre ha recepito il documento, e quindi devo dire, come regione e come centro pubblico regionale, era una questione diversa, anche perché è la prima volta che si è aperto in un centro pubblico la possibilità di fare una fecondazione eterologa, in quanto c'era una vecchia circolare De Gan degli anni 80 che anche prima della legge 40 vietava l'eterologa nei centri pubblici. Ecco perché è una nota, diciamo, particolare in questo momento, che dà più speranze anche a tutti i cittadini italiani hanno un problema di infertilità e debbono percorrere un percorso di fecondazione eterologa. Professoressa Coccia, quante richieste avete ricevuto sinora, proprio per il volano di cui diceva? No? Sì, abbiamo ricevuto, diciamo, all'inizio veramente il telefono arrivava, abbiamo a squillare anche a centinaia, tanto di dover aprire un numero dedicato, un call center dedicato, e quindi siamo adesso a migliaia di coppie che sono state programmate nei prossimi giorni nei vari ambulatori. Senta, e per quanto riguarda invece i gameti femminili, cioè gli ovuli, no? È più difficile che ci sia una donazione, lo sperma, sappiamo tutti cosa, diciamo. Allora, anche in questo grande sforzo. È ovviamente l'aspetto più complesso, premesso che abbiamo aperto anche lì un numero dedicato a chi desidera avviarsi in atto di solidarietà nel donare al maschile e al femminile. È chiaro che l'iter che si deve seguire nella donna è più complesso, si deve sottoporre a un trattamento ormonale, controlli ripetuti e poi un piccolo atto chirurgico in cui si devono prelevare questi gameti. Allora, quella è la donatrice, diciamo, volontaria. Esiste anche l'altra possibilità, cioè che alcune donne che si sottopongono a procreazione assistita, che rientrano in quelli dei criteri che sono stati anche deliberati dalla conferenza delle regioni, cioè sotto i 35 anni, buono stato di salute, negativa per tutto quello che è lo screening effettivologico e genetico, possono donare alcuni dei loro ovociti per queste donne che hanno una riserva ovarica ormai assente o francamente ridotta. Professoressa Coccia, avremo occasione di risentirci, perché penso che questo sia soltanto l'avvio, e poi lei diceva addirittura di migliaia di richieste, quindi capiremo un po' che percorso prenderà con questa svolta la fecondazione eterologa. Io intanto la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Grazie, professoressa. E adesso invece con Salvatore Chicco Padula, del vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Salvatore. Ciao, buonasera. Chicco, parliamo della legge di stabilità, del DEF, il documento di economia e finanza. Adesso leggo varie agenzie che stanno uscendo nel dettaglio. DEF, sì del Senato al rinvio del pareggio del bilancio fino al 2017. Ancora DEF, sì alla mozione di maggioranza a stabilizzare gli 80 euro in busta paga. Intanto ci spieghi la differenza tra DEF e legge di stabilità, Chicco. Sì, dunque, il DEF è il documento che in realtà viene approvato dal governo ad aprile, entro il 10 aprile, ed è un documento di programmazione, cioè è quindi il documento nel quale il governo fissa gli obiettivi economici e di finanza pubblica per l'anno successivo. Questo documento, che è stato introdotto con la riforma della contabilità pubblica nel 2010 o nel 2011, non mi ricordo, viene approvato dal Parlamento, però diciamo più passa il tempo rispetto ad aprile, più è possibile che le condizioni di contesto insomma complessivo si venga a essere modificato, e quindi generalmente prima di approvare la legge di stabilità il governo presenta al Parlamento una nota di variazione al documento di economia e finanza. Quindi il DEF è preparatorio alla legge di stabilità. Esattamente. La legge di stabilità invece è un testo, un articolato, una vera legge che quindi sulla base delle previsioni e degli obiettivi indicati dal DEF individua gli strumenti concreti per raggiungere quegli obiettivi. La legge di stabilità, anzi il disegno di legge di stabilità, verrà presentato domani al Consiglio dei Ministri e poi andrà in Parlamento e presumibilmente entro la fine dell'anno, anzi sicuramente entro la fine dell'anno, verrà approvato dal Parlamento. Sentiamo un attimo che cosa abbiamo fatto sentire anche in parte all'inizio, cosa ha detto Squinzi a proposito di questa legge di stabilità, di questa manovra. È sicuramente un provvedimento che va nella direzione giustissima, è un provvedimento che tra l'altro l'eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP è un provvedimento che noi chiediamo da anni, ancora prima di me lo chiedeva Emma Maccegagli. La realizzazione di un sogno. Dice che per gli industriali. Quindi hai sentito la realizzazione di un sogno. E a proposito di questa agenzia che leggevo, il rinvio del pregio di bilancio al 2017, la legge di stabilità, che cosa, come interferisce? Diciamo, era previsto, l'Italia aveva preso degli impegni anche in sede europea per arrivare al pareggio di bilancio già a partire dal 2016. In realtà insomma, le condizioni non sono tali da consentire all'Italia diciamo, un'azione di questo tipo, per cui il governo ha inserito dentro la nota di aggiornamento al DEF il rinvio di un anno di questo obiettivo, che è un obiettivo ovviamente importante, ma che in questa fase, cioè la fase in cui diciamo, l'economia... Chicco, stai girando intorno al telefono, ecco, tienilo fermo, non si capiva molto. Bene. Scusa. Prego, so che stai lavorando. Ecco. Quindi è impossibile, secondo il governo, rispettare questo impegno per quest'anno. Ci spieghi cos'è anche il pareggio di bilancio? Così, il pareggio di bilancio vuol dire consentire diciamo, la gestione dei conti pubblici diciamo, senza ulteriori indebitamenti, cioè diciamo, il saldo primario deve risultare in pareggio. Ovviamente poi lo Stato deve continuare a emettere titoli pubblici per pagare e rinnovare i titoli pubblici che vanno a scadenza, ma insomma significa pareggiare il bilancio proprio tecnicamente. In conclusione, questa nota di Moody's, dell'agenzia di rating, no, quelle che valutano l'affidabilità finanziaria economica di una società, di uno Stato, che ha detto no, l'Italia ha una posizione solida e per le riforme c'è tempo, come si è detto finora, fate le riforme presto, presto, non c'è tempo. Ma diciamo che adesso vedremo bene domani che cosa accade al Consiglio dei Ministri, però insomma il governo si appresta a varare una legge di stabilità che insomma mi sembra un intervento che sicuramente ha un'impronta di tipo espansivo e quindi evidentemente questo viene apprezzato insomma dai mercati e dagli osservatori, dalle agenzie di rating come Moody's. In più dobbiamo insomma anche riconoscere che seppur insomma, tra molte difficoltà e percorsi magari meno veloci di come avremmo sperato e auspicato, però anche sul fronte delle riforme qualche cosa di importante e che manda segnali importanti anche agli osservatori, agli investitori, alle istituzioni si sta muovendo, quindi diciamo che la combinazione di questi due fatti secondo me spinge appunto diciamo chi ci osserva e chi ci deve valutare ad essere diciamo più ottimisti. Certo, se posso aggiungere una cosa, la nostra legge di stabilità che verrà approvata domani, il disegno di legge di stabilità, dovrà superare l'esame anche della Commissione europea, perché con la Commissione europea noi ci siamo impegnati, anzi dobbiamo rispettare alcuni vincoli, il deficit, eccetera. Quindi quello sarà un altro esame. Un altro esame che ci aspetta. Vedremo come andrà a finire. Grazie Chicco Padula, buon lavoro. Grazie. Ciao, ciao, buonasera, ciao ciao. E corro subito da Dario Ricci per chiedere, il presidente dell'UEFA Platini, che interviene sulle polemiche relative a Juve e Roma, dicendo sono le solite reazioni contro chi vince perché lui era della Juve? No, non credo che abbia detto così Michel Platini, che si è trasformato da grande campione in altrettanto abile diplomatico. Platini ha detto, parlando tra l'altro all'Ansa, che di fatto da sempre nella storia del calcio è così e da sempre ci sono queste polemiche, si dice che la Juve è favorita, che chi vince è perché è favorito dagli arbitri, e quindi insomma era un discorso molto in generale, perché Platini è troppo arguto per entrare a gamba tesa su questioni che d'altra parte lo appassionano anche ben poco, Roberta. Ma si può dire tu per chi tieni, no? No, il mio è un segreto di Stato. No, io sono davanti al tuo avvocato. Criticamente juventino. Bene, bene, l'ha detto. Coming out. Criticamente juventino, diciamo così. Grazie Dario Ricci, stasera si è disvelato anche lui. Noi ci sentiamo tra pochi istanti.